sogni miei. In un letto così grande stringo appena il mio cuscino, sento il tuo profumo dentro me. Solo e puro, oh oh. Ti darei tutta l'anima, la mia vita, la mia libertà, ridere per sempre e poi volare via. Passo dopo passo mi ritrovo in questo posto dove mi portavi solamente. Cammino per le strade mentre penso come stai. Non è facile lontani mai. Se volassi dolcemente, sai che ti raggiungerei. Oltre il tempo, verso i sogni miei. E vorrei camminare un po', mano nella mano, per perdermi in un bacio solo e puro. Oh oh. Ti darei tutta l'anima, la mia vita, la mia libertà, ridere per sempre e poi volare via. Passo dopo passo mi ritrovo in questo posto dove mi portavi solamente tu. E passo dopo passo tutto pesa come un passo, starei bene se ci fossi adesso. Dove sei? Passo dopo passo mi ritrovo in questo posto dove mi portavi solamente tu. E passo dopo passo tutto pesa come un passo, starei bene se ci fossi adesso. Trovo solo adesso, ma ti giuro che io non ti lascio.